Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Quando sono andato via da giù c'era mio nonno che mi aveva detto, piangendo chiaramente, guarda, io sono partito perché tu non dovevi partire. La nostra migrazione non è una migrazione per fame. Non è vero che ce ne siamo andati semplicemente per voglia di vedere il mondo. Se avessimo avuto gli stimoli e le prospettive necessarie in Italia, probabilmente non avremmo avuto la necessità di muovere, probabilmente non ci sarebbe proprio venuto in mente. Buongiorno e bentrovati al primo appuntamento stagionale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Riprende a pieno ritmo la nostra inchiesta sulla nuova emigrazione professionale italiana fatta di giovani qualificati, giovani con laurea e spesso anche master alle spalle. Per cominciare vi abbiamo fatto ascoltare la testimonianza di Daniele e Claudia, trentenni abruzzesi espatriati a Barcellona, voci prese in prestito da un video di MTV News. Parole dure e sincere le loro, e anche per giovani come Daniele e Claudia che andiamo avanti ogni settimana a raccontarvi la storia di un'Italia brillante e di talento, nei fatti semi obbligata ad andarsene. È questa l'emergenza, o se volete lo scandalo, del terzo millennio. E oggi aggiungiamo un altro tassello alla nostra inchiesta a puntate. Non essendo dello stesso dipartimento e non essendo raccomandata da nessuno, ho vinto il dottorato senza borsa. Bell'aggettivo, raccomandata, in Italia purtroppo conta. Esatto, e quindi la mia famiglia ha deciso di mantenermi e quindi ho cominciato a lavorare, ma quando andavo in laboratorio c'era qualcosa che non mi quadrava. Laura Perin, 36 anni, è ricercatrice e assistente professoressa alla University of Southern California di Los Angeles. Della sua storia parleremo tra pochi minuti e lo faremo con un ospite d'eccezione, Renato Dulbecco, premio Nobel per la medicina. Ora spazio al notiziario. È stata un'altra estate nella quale si è molto parlato del brain drain italiano, ma non solo. Innanzitutto ricordiamo come resta alto l'allarme sui giovani senza lavoro. Secondo l'ultima rilevazione Eurostat, il tasso di disoccupazione giovanile nel bel paese rimane elevatissimo al 26,8%. Secondo l'OCSE fanno peggio di noi solo Spagna e Grecia. Anche per questo il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha lanciato a inizio settembre il seguente appello. Penso che sia venuto il momento perché l'Italia si dia nuovamente una seria politica industriale. Abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno di questo anche per l'occupazione, per i giovani. Giovani che, dice Napolitano, oggi sono per noi il motivo principale di preoccupazione. In un'intervista con Il Messaggero, il capo dello Stato ha parlato anche di chi lascia l'Italia. Abbiamo fatto il possibile per farli rientrare, qualche volta ci siamo riusciti. Proveremo ancora, dice Napolitano, perché non possiamo perdere questa battaglia. Però è vero che spesso, quando rientrano, non trovano prospettive adeguate di ulteriore affermazione. E dicevamo delle notizie legate alla fuga dei talenti. Ha fatto molto discutere il caso del professor Paolo Macchiarini, chirurgo 51enne che ha annunciato l'intenzione di lasciare l'Università di Firenze per andare a insegnare al Karolinska Institutet di Stoccolma. Macchiarini, specialista nei trapianti di trachea, già espatriato in passato, ha denunciato la chiusura del mondo accademico fiorentino nel dargli un incarico. Sentiamo Macchiarini al microfono di Roberta Pellegatta. Non me l'aspettavo in questi toni, vabbè, però non voglio che sia un esempio anche per gli altri giovani, però ci deve essere un garante del patrimonio culturale italiano, un garante dell'educazione dei giovani, ecco, un garante che questi devono rientrare perché fanno parte del patrimonio nazionale, ci deve essere. Io qui faccio un appello al Presidente della Repubblica perché non è possibile che non si garantisca l'inserimento nella vita sociale, economica, culturale del paese, per il bene del paese, di tutti quelle migliaia di giovani che devono andare all'estero. E secondo Eurostat sono ben 1,3 milioni gli italiani che vivono in un altro paese dell'Unione Europea. Tra gli emigrati europei che risiedono all'interno dell'Unione, il nostro gruppo di espatriati risulta terzo alle spalle di rumeni e polacchi. È aperto fino al 30 settembre il bando della prima edizione dello Young Venetian Excellence Award, un premio al talento imprenditoriale e ai risultati ottenuti nella ricerca, destinato ai giovani veneti nel mondo e ai giovani stranieri residenti in Veneto. A organizzarlo è l'associazione Padovani nel Mondo, 6 i premi in palio, destinatari i giovani tra i 20 e i 35 anni, info a padovani.nelmondo@pd.camcom.it. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo. Un senior economist allo Institute of Directors di Londra, organizzazione che riunisce i business leader britannici, scadenza per il CV 21 settembre, info su yod.com. Un ricercatore legale sulla legislazione italiana, lo cerca la facoltà di legge dell'Università di Osnabrück in Germania, scadenza per il CV 30 settembre, info a elsi@wos.de.

manca l'umiltà e la trasparenza nella gestione della ricerca in generale. Mancano poi, secondo me, delle persone che abbiano un carisma sia a livello strutturale e gestionale, che sappiano veramente in modo scientifico creare un team basato su queste due qualità. Di conseguenza manca la capacità di gestire quindi i fondi in base alla meritocrazia e non alla politica. Secondo, mi rattrista molto quando vedo la mancanza di entusiasmo, manca soprattutto nei giovani. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Laura Perin, 36enne ricercatrice e Assistant Professor of Urology alla USC in California. Laura è giunta negli Stati Uniti dopo una laurea in biologia a Padova, prima per un dottorato a Boston, poi in pianta stabile in California, in mezzo a un tentativo di ritorno in Italia. Ora gestisce un proprio laboratorio di ricerca al Children's Hospital di Los Angeles. Laura, ripartiamo da te, dall'ospite d'eccezione di questa puntata, che è il professor Renato Dulbecco, premio Nobel per la medicina. Hai una domanda per lui? Sì, mi piacerebbe chiedere al professor Dulbecco che cosa ha rinunciato e che cosa ha guadagnato quando ha deciso di ritornare in Italia. Ho deciso di ritornare in Italia in un modo mezzo, insomma, perché in fondo io abito negli Stati Uniti. È vero che oramai non lavoro più perché ho raggiunto l'età di 96 anni e questo sembra che sia sufficiente per andare in pensione. D'altra parte, essendo qui nell'ambiente noto, posso mantenermi al corrente e posso contribuire anche alle discussioni generali su alcuni problemi, per cui mi sento molto, molto soddisfatto della situazione. Professore, la preoccupa il fenomeno del cosiddetto brain drain o, come diciamo in italiano, fuga dei cervelli? Mi ha occupato per parecchio tempo, che è una cosa di grande importanza, evidentemente. Non si può dire mi piace o non mi piace, è un problema serio che occupa la nostra generazione. Ma io lo vedo in questo modo. Per una ricerca che vada avanti in modo positivo ci vogliono molti fattori, tra cui anche una certa competizione, perché la competizione è veramente quella che spinge, che suggerisce le nuove vie, e questa competizione avviene quando ci sia una grande domanda per cervelli che le fanno. Dunque, perciò il fatto che ci sia questa fuga di cervelli, questa competizione, per me è una cosa normale, e senza di questo non ci potrebbe essere veramente una ricerca molto positiva, molto spinta. Non trovo che il fatto che ci sia questa competizione sia un fattore negativo, anzi per me è parte di un fattore positivo. Ecco professore, però come molti giovani ricercatori, tra cui Laura, dicono, insomma, loro contrappongono un sistema italiano fatto spesso di compromessi, liste d'attesa, non meritocrazia, a un sistema americano dove in cambio di un duro lavoro si ha però la libertà di pensare, parlare, lavorare senza essere penalizzati. Dove abbiamo sbagliato, professore? Se lei vede gli Stati Uniti, c'è tutta una suddivisione di ambienti che sono molto diversi l'uno dall'altro. Non c'è una uniformità come uno potrebbe pensare. E in queste condizioni, naturalmente, quello che prevale sono le situazioni che sono più positive, che hanno più contributi. Insomma, per cui è un sistema di valutazione per me, un sistema di valutazione questo. Il fatto che ci sia la possibilità di esportare, diciamo così, questi cervelli e ci sia una competizione in questo campo, per me è veramente un fatto positivo. Professore, lei ha scritto: il mio lavoro è stato plasmato dall'interazione quotidiana con un gruppo continuamente intercambiabile di giovani ricercatori, e ha aggiunto: i miei giovani collaboratori erano una parte essenziale del processo di ricerca. Perché i giovani sono importanti nella ricerca, ma non solo? E secondo lei l'Italia, un paese che spesso viene definito come un paese non per giovani, può avere un futuro se continua a ignorare le giovani generazioni e il loro talento? I giovani devono avere un contributo fondamentale in qualunque campo di attività umana, perché il giovane è quello che ha le idee, e che le può pronunciare, le può sviluppare. Dunque, questa è per me la base, in effetti, della ricerca. Professor Dolbecco, quali soluzioni, secondo lei, per migliorare la ricerca in Italia, per renderla un settore in grado di attrarre i giovani anche stranieri, non solo riportare in Italia i nostri, ma anche attrarre i talenti stranieri, metterli al centro del lavoro? Ma questo ci ho pensato parecchio. È evidente che non c'è una soluzione ovvia. E io penso che quello che bisognerebbe fare è cercare diverse soluzioni e vedere quale è la più adatta. E, insomma, naturalmente queste diverse soluzioni dovrebbero comportare diverse organizzazioni di ricerca, di laboratorio, organizzazioni di intellettuali, dei veri aspetti della ricerca, aprire le porte a persone che non sono correntemente nel campo, ma che vogliono raggiungere il campo, che più delle volte sarebbero stranieri, ma anche lo straniero può contribuire moltissimo. L'importante è che ci sia una mente che si dedica alla sacra conquista della verità. Grazie al professor Renato Dolbecco, premio Nobel per la medicina. In chiusura, un'ultima domanda a Laura Perin, protagonista di questa puntata di Giovani Talenti. Laura, quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando, tra le varie vie di uscita, a un espatrio? Credo che fare un'esperienza all'estero sia importante non solo dal punto di vista scientifico e lavorativo, ma anche sicuramente dal punto di vista personale. È un confronto con una realtà diversa ed è giusto aprire gli orizzonti. Il consiglio che di solito do è quello di non perdere l'entusiasmo, perché alla fine è la molla principale, secondo me, per fare della ricerca. E siamo giunti allo spazio dedicato alle associazioni e alle iniziative che si occupano di quella che possiamo definire come la nuova emigrazione. Oggi restiamo in tema stelle e strisce, scoprendo un ponte, quello costruito da Mind the Bridge, associazione che intende unire Stati Uniti e Italia in un settore chiave, quello dell'innovazione. Alberto Onetti, presidente di Mind the Bridge Foundation. Mind the Bridge Foundation nasce in California nel 2007 su iniziativa di Marco Marinucci, che è un manager di Google, su un'idea che è quella di dare una mano al sistema Italia nel cercare di migliorare la propria capacità di produrre innovazione. La visione dell'Italia dall'estero è la visione di un paese molto molto seduto su attività mature, che non sta facendo tantissimo. Quindi lo spirito è quello, che è uno spirito molto forte e molto sentito da parte della grande community italiana che c'è in Silicon Valley, è quello di give back, ossia gente che ha avuto successo, ha fatto una carriera da emigrante e ha avuto l'occasione di conquistare e raggiungere risultati importanti, è quello di dare una mano a dei giovani nel fare lo stesso, con un pezzo in più. Il nostro è un trip to Silicon Valley and back, cioè la nostra idea è di stimolare giovani a venire in Silicon Valley, a capire cosa significa fare impresa là, con l'idea che si possa creare del valore, dell'innovazione, dell'occupazione anche in Italia. Quali sono le principali attività che portate avanti? L'orologio di Mind the Bridge gira intorno a una business plan competition, cioè noi annualmente cerchiamo di raccogliere le migliori idee da parte degli innovatori italiani e chiediamo di presentare le loro idee. Le affidiamo a un comitato di selezione composto da venture capital italiani ed esteri. Questi ne selezionano 15 e queste 15 idee poi vengono portate attraverso un programma di formazione e di ulteriore selezione. E poi, diciamo, il momento principale sarà il 5-6 di novembre a Milano presso il Corriere della Sera, dove andremo a chiedere ai migliori 15 idee di presentarsi davanti a una platea di investitori. All'interno della vostra organizzazione ci sono anche parecchi giovani professionisti espatriati per cercare all'estero quello che in Italia era loro precluso. Quali sono i motivi che accomunano queste storie di espatri? I motivi sono talenti, gente che aveva una grande voglia di mettersi in gioco, che è andato in un paese che è tutt'altro che ospitale, che sono gli Stati Uniti d'America, in particolare in una parte di un paese, che è la Silicon Valley, che è un coacervo di culture incredibile, un paese che va a una velocità incredibile, e si sono trovati in questo posto, su messo in gioco e hanno ottenuto successo, perché in Italia ci sono tanti giovani di grande talento. All'inizio dell'intervista hai parlato della necessità di innovazione in Italia e hai detto che la nostra economia sia un po' seduta su settori immaturi. Allora, qual è il problema? Focalizziamolo. I problemi sono tanti in Italia. I dati di una ricerca che abbiamo fatto all'Università dell'Insubria come Cresit ci dicono che il 3-5% del prodotto interno lordo viene da settori innovativi, quindi vuol dire che il 95% viene da qualcosa che innovativo non è, e questo è un dato che deve farci preoccupare. Quindi c'è un problema di un apparato industriale che nel tempo non è stato capace di rinnovarsi, e dall'altro c'è un apparato, penso, culturale, scolastico, universitario, che forse non ha stimolato la capacità di aprirsi internazionalmente. Per maggiori informazioni potete cliccare su www.mindthebridge.org. E prima di chiudere questa puntata di Giovani Talenti, apriamo lo spazio Intern Active, una rubrica di confronto online per dare voce a chi di voi è espatriato oppure intende intervenire nelle discussioni che lanciamo settimanalmente. In questa prima puntata autunnale riprendiamo la discussione inaugurata a metà luglio. Quali sono le vostre proposte per rendere l'Italia un paese per giovani? Queste le vostre risposte. Claudio: dobbiamo essere noi giovani a cambiare le cose, non saranno certo gli altri a farlo per noi, dobbiamo uscire dai binari e creare dinamiche nuove. Christian: vorrei vedere un fenomeno virale dove i giovani dentro le aziende portano altri giovani, so che questo inasprisce la competizione, ma la competizione è sorgente di innovazione. Laura: per prima cosa bisogna rendere illegali gli stage non pagati. Le aziende in Italia, al posto di assumere professionisti o neolaureati da far crescere, preferiscono sfruttare gli stagisti. Qui a Londra viene assunto appena laureato e cresce in azienda. E poi occorre innovare. Il proprietario del sito per cui lavoro, che fattura 60 milioni di sterline, non ha la barca o la villa in Sardegna. Con i profitti della sua azienda reinveste, innova e lancia un altro sito. Più innovazione, più investimenti, più posti di lavoro. Vi ricordo che per contattarci potete scrivere a giovanitalenti@radio24.it oppure ci potete cercare su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina fan Fuga dei Talenti. Esiste anche un gruppo sul portale professionale LinkedIn chiamato La Fuga dei Talenti, dove rilanciamo settimanalmente la discussione. E non dimenticate di visitare il blog aperto all'indirizzo radio24.ilsole24ore.com/blog/nava. Inviateci i vostri contributi che pubblicheremo online. E finisce qui questa puntata di Giovani Talenti. Aspetto i vostri contributi online a giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 15, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.